con l'autrice e attrice Donatella Mei per presentare la performance tragicomica Non è sangue, è gioco. A Roma, al Macro, domenica 3 marzo 2019. Donatella, ben trovata. Ben trovato a te, ciao Federico e ciao a tutti. Cos'è? Raccontaci un po'. Oh, la performance è divisa in due parti. In una parte io interpreto Dora Maar, nell'altra interpreto una insegnante sui generis, che spiega un po' al pubblico, in linea veramente minimale, chi erano queste due artiste, Dora Maar e Camille Claudel. Sullo schermo invece ci sono dei video alternati delle opere di Dora Maar e le opere di Camille Claudel, che tutto è stato fatto da me e da Carolina Ielardi, praticamente tutto. C'è anche una ripresa di una scultrice che scolpisce, che in realtà è Carolina Ielardi, però dovrebbe interpretare Camille Claudel. Poi sulla scena lei proietta e ci sono io che, ma è stato fatto quasi tutto insieme. E com'è nato? Com'è nato? Dunque, io avevo fatto due spettacoli, uno su Camille Claudel e uno su Dora Maar, perché sono due artiste incredibilmente importanti che sono state distrutte dai loro amanti. Quindi mi interessava questo tema delle donne artiste che hanno pagato praticamente con l'annullamento della loro arte il fatto di essere state amanti, una di Picasso e una di Rodin. Questa è la cosa. Perché, e quindi vabbè, lo sai che io sono femminista. E quindi mi interessa questa tematica. E, la performance è tragicomica, nel senso che c'è una parte un po' più drammatica e una parte un po' più comica, più giocosa. Ok, rispetto ai tuoi spettacoli in cui hai trattato di queste due figure, e qui cosa hai trasformato? Beh, qui ci sono i video con delle musiche stupende, chiaramente di musiciste donne, non lo posso dire, è una sorpresa. Chiaramente lì erano due spettacoli di un'ora l'uno dall'altro, qui è mezz'ora per tutte e due. E anche i video qui hanno delle chicche comiche. Anche i video delle opere hanno delle piccole trovate comiche. Poi molto chiaramente è all'osso perché da 2 ore di spettacolo questa dura mezz'ora nemmeno e poi c'è l'interrogazione, vabbè, non voglio dire tutto tutto, però insomma il pubblico dovrebbe partecipare, ecco. Quindi se vieni tieni pronto, sii preparato. Senti, questo titolo? Il titolo Non è sangue gioco? Dora Maar praticamente quando ha conosciuto Picasso, lei faceva questo giochetto in un bar, quello del coltello tra le dita. Pare che si fosse ferita e che Picasso fosse impazzito appunto per questo eccesso di creatività. E quindi Non è sangue gioco, come io la interpreto, è il fatto di, chiaramente io sono contraria alla distruzione artistica delle donne per conflittualità con uomini artisti più potenti di loro. Di conseguenza, il mio messaggio è: non è sangue, è gioco, cioè bisogna giocarci anche con questi grandissimi, con questi personaggi. Bisogna un po' prenderli in giro, diciamo così. È una prima questa? Un Sì, è una prima e un unicum per ora, però. unicum, ok. Sì, perché è pensata proprio per il macro, però poi verrà rifatta, ovviamente verrà riproposta, spero, in lungo e in largo. Anche perché è agile, dura appunto tra i 23 minuti e la mezz'ora, è molto agile ed è molto fruibile, non è un pippone, ecco. Non mi veniva una parola più educata, non mi è venuta. Voi due avevate già lavorato insieme? Avevamo fatto una cosa tanto tempo fa, perché in realtà lei è un'artista multimediale, si occupa di multimediale, fa anche videomapping, però viene dallo IET ed è dipinge anche, quindi è un'artista visiva. E io invece, insomma, sono altro. Quindi avevamo fatto una cosa insieme, però in cui io mi occupavo quasi esclusivamente della parte mia e lei si occupava quasi esclusivamente della parte sua. Invece qui c'è stata proprio una collaborazione totale, cioè lei è entrata nel mio campo, io sono entrata nel suo, proprio c'è stato un otto della trascendenza. Ah, io ho anche ripreso, ho fatto una ripresina di lei che scolpisce, se vieni la vedrai, pessima ovviamente, però poi lei l'ha trattata e quindi è venuta bene. Ho visto che c'è l'evento Facebook, comunque ricordiamo allora la performance tragicomica, Non è sangue, è gioco, a Roma, al Macro, domenica 3 marzo 2019. Alle 4 e alle 5, perfetto. La ripetiamo due volte, nella stanza media si chiama, bene. Media, ma insomma, media. Donatella, un abbraccio. Grazie, anche a te, ciao. Grazie, ciao ciao, grazie, ciao ciao ciao ciao.